Bologna giustamente ha preso spazio in mostra ultimamente in maniera molto molto lodevole, con lungo 800, con il rinnovamento in Pinacoteca, con i percorsi dedicati anche a un aspetto che ci ha portato a conoscere l'Ippo di Dalmasio, per cui diverse esposizioni molto molto interessanti, anche direi da non perdere. Continuiamo poi ovviamente con in mostra a dare l'attenzione alle sedi espositive che storicamente hanno portato la rubrica su Radio Città Fujiko nel Breakfast Club. Tra queste la prestigiosa Magnani Rocca. Siamo a Mamiano di Traversetolo, per me una delle sedi espositive più belle in assoluto. È la Villa dei Capolavori e vede un lavoro, grazie al direttore Stefano Roffi, che alterna curatrici e curatori per percorsi all'interno del Novecento, che danno uno sguardo assolutamente originale e di interazione con la sede espositiva stessa. La permanente a Magnani Rocca è qualcosa già di per sé di un livello e di un valore sia estetico che artistico inestimabile, e poi l'idea di portare percorsi in avvicinamento a tutto ciò più vicini ai giorni nostri è qualcosa che dà una completezza in arte veramente molto importante. Parliamo di Bruno Munari, nasce a Milano nel 1907, artista, designer e scrittore italiano. È stato uno dei massimi protagonisti dell'arte del design e della grafica del XX secolo. Da contributi fondamentali in diversi campi, dall'espressione visiva, pittura, scultura, cinematografia, disegno industriale, grafica e anche non visiva, con la scrittura, la poesia, la diffusione di concetti artistici e letterari, ricerca poliedrica sul tema del movimento, sul tema della luce, dello sviluppo, della creatività, della fantasia nell'infanzia attraverso il gioco. Munari è una figura leonardesca, definito così, tra le più importanti del Novecento italiano. Assieme all'idea di spazialismo di Lucio Fontana, Bruno Munari, il perfettissimo, domina la scena milanese dagli anni 50 agli anni 60. Certo, sono gli anni del boom economico in cui nasce la figura dell'artista operatore visivo, nasce la figura di un artista che va oltre, che diventa consulente anche aziendale, che contribuisce attivamente con le immagini, con la fantasia e con il talento a una rinascita e diventa consulente aziendale, rinascita industriale italiana del dopoguerra. Partiamo da delle origini. Munari partecipa attivissimo, giovanissimo, al movimento futurista, dal quale che si distacca con un senso di levità ed umorismo, con diverse opere, insomma, di cui magari parleremo anche nella conversazione che abbiamo tenuto con Marco Meneguzzo, curatore, insieme a Stefano Roffi, direttore della sede espositiva di Magnani Rocca. Marco Meneguzzo, curatore dell'esposizione Bruno Munari, tutto. La nuova esposizione per il 2024 a Magnani Rocca, Mamiano di Traversetolo, sede espositiva prestigiosa che seguiamo, come ben sapete. Siamo con Marco Meneguzzo, curatore, che innanzitutto saluto, buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti voi. Parliamo di un artista di cui faremo un identikit, che è Bruno Munari. Ci può dire qualcosa di più per presentare intanto questo arrivo alla Magnani Rocca? Innanzitutto diciamo che era nato nel 1907 ed è morto nel 1998, quindi ha percorso tutto il XX secolo. Questo è un dato anagrafico. Dato invece creativo è che Bruno Munari è stato uno di quei personaggi che hanno attraversato tutti i territori creativi, nel senso che si è occupato di design, si è occupato di arte, si è occupato di grafica editoriale e soprattutto si è occupato di didattica e di pedagogia, ed è in questo campo che è soprattutto noto da un pubblico quasi di fan che appartiene a tutti, non so, gli educatori, gli insegnanti, eccetera, perché aveva addirittura ideato un metodo Munari per approcciarsi al mondo, per far vedere ai bambini come ci si potrebbe approcciare al mondo.

Ballard Ensemble of Chicago, il brano con cui portavano a conclusione i loro concerti. Ora stiamo portando a conclusione la conversazione con Marco Meneguzzo, curatore dell'esposizione a Magnani Rock fino al 30 giugno 2024. Bruno Munari, tutto è un ricco catalogo con un saggio del curatore stesso insieme a Stefano Roffi, direttore della Fondazione Magnani Rocca. Abbiamo anche la possibilità, tra l'altro, di una visita che ovviamente è da non perdere per la Villa dei Capolavori, che come ogni stagione porta la mostra di anno precedente che arriva fino al termine, dopodiché quella che accompagna fino alla stagione estiva. Per cui, insomma, un importante momento di incontro per l'arte, per la ricerca, per quanto riguarda uno spazio che già dalla bellezza architettonica di per sé e oltretutto con un contorno, con questo giardino che in stagioni primaverili e perché no anche autunnali, anzi ho sempre detto l'unico momento in cui ho suggestione positiva dell'autunno è al momento della presentazione per l'esposizione di inizio stagione, anzi di fine anno ma di inizio stagione, sempre questo momento che porta all'equivoco. Beh, detto questo, con Bruno Munari invece arriveremo all'estate, cioè fino a 30 giugno, per cui le fioriture vi accoglieranno alla Villa dei Capolavori, la mostra permanente che è una varietà di artisti che Hall of Fame e All Star Game messi assieme, e il progetto scientifico con il protagonista Munari che porterà le micro e macro sensazioni di uno dei massimi protagonisti dell'arte, del design e della grafica in tanti aspetti: pittura, scultura, cinematografia, disegno industriale e anche non visiva, se vogliamo. Tra l'altro alcune particolarità, alcune copertine di dischi importanti sono stati disegnati da Bruno Munari. Aggiungo anche un'importante collaborazione con un maestro tutti i tempi. Sentiamo di chi si tratta. Facendo conversazione anche, tra l'altro, visto che abbiamo in redazione la ricerca in ambito di grafica, mi hanno detto che è stato anche illustratore per Rodari. Certo, è un sodalizio molto interessante questo. Aveva fatto, e sono straordinarie, e in mostra ci sono, aveva illustrato il pianeta degli alberi di Natale, oltre ad aver fatto le copertine. Il problema della grafica editoriale è uno del, diciamo così, dei suoi cavalli di battaglia, perché ha cominciato negli anni 30 con delle soluzioni grafiche straordinarie, tipo, non so, bucare le pagine, fustellarle in modo che uno vedesse nella pagina successiva, per dire, ecco, cosa che gli è rimasta poi nel corso del tempo, no? Far vedere attraverso, fare delle pagine come dire trasparenti in modo che si vedesse sotto, oppure cose altre cose di questo genere. E poi naturalmente è diventato il grafico Einaudi più noto e più importante, perché tutte le grafiche Einaudi degli anni 60 e 70 sono sue. Il percorso in mostra immagino sia suddiviso in sezioni. Certo, è suddiviso in sezioni, ma non sono delle sezioni tipologiche. Abbiamo voluto non fare, per esempio, ecco, qui ci sono tutte le sedie, qui ci sono tutte le lampade. Abbiamo voluto fare delle sezioni 5, per l'esattezza, che seguissero delle attitudini mentali. E queste cose sono essere nel tempo, cioè lui nel suo contesto, dalle 2 alle 3 alle 4 dimensioni, cioè il suo modo di progettare che non prevedeva fratture dimensionali, ma il passaggio tranquillo tra l'una e l'altra. Poi c'è sperimentare il limite, a dire fin dove possiamo spingerci con questa tecnica, con questa idea, con questo oggetto. Sperimentare il limite, dicevo, poi annullare il tempo, cioè smembrarlo e ricostruirlo in un certo senso, e poi infine scoprire il mondo, che è dedicato quasi integralmente alla pedagogia e all'educazione, ma non solo. Percorso intenso, esaustivo, una grande esposizione come del resto a Magnani Rocca, insomma, portiamo all'attenzione delle ascoltatrici e degli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Io la ringrazio tantissimo, le auguro buona giornata e a ritrovarci. Sono io che ringrazio voi e venite a vedere la mostra, che tra l'altro è in un posto fantastico. Grazie. Bene. Buona giornata. Anche a voi, grazie a voi. tocchi al cuore e allo spirito la visita, la gita a Mamiano di Traversetolo. Fa bene anche all'appetito, in quanto l'aspetto enogastronomico della zona piacollinare di Parma è indubbiamente di grandissima qualità. Aggiungiamo l'aspetto di questa villa dei capolavori, Magnani Rocca. Non mi dimenticherò mai come ha chiuso Marco Meneguzzo, che già di per sé in un posto fantastico, l'esposizione di 2024 dedicata a Bruno Munari. Beh, per quanto riguarda invece la permanente, vi ritroverete in una Hall of Fame dell'arte. Improvvisamente sarete avvolti dai grandissimi artisti tutti i tempi, così come se vi accompagnassero in questa passeggiata costante di bellezza e di emozione. Concluderemo con un last minute per un appuntamento al cinema, al Cinema Nuovo Nosadella, quindi stacco pubblicitario e poi last minute per sabato 6 aprile al Cinema Nuovo Nosadella, via Ludovico Berti, ovviamente a Bologna. Un buon ascolto con il Bossa Balanzo e poi si ritorna per concludere il nostro Breakfast Club. Beh, è una conclusione da non perdere questa.